Sono al telefono con Alessandro Baronciani che si esibirà il 18 marzo per il Sooner Festival. Buongiorno Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, sarete i primi ad esibirvi su questo palco virtuale del Sooner Festival? Che tipo di spettacolo avete preparato? Allora, lo spettacolo di Sooner è nato appunto da questo progetto che è veramente interessante, che ha dato la possibilità di creare uno spettacolo da zero, no? Partendo appunto da queste residenze d'artista, appunto con questo accordo tra Arci e Regione Emilia Romagna. E il nostro progetto era quello tra i più, diciamo, difficili da creare, perché è nato tutto dal mio fumetto Quando tutto diventò blu. E abbiamo creato uno spettacolo che partiva dal fumetto, quindi una specie di concerto disegnato, dove dal vivo, mentre io disegnavo con una telecamera, veniva proiettato il disegno sul palco, dove c'erano le cantanti e Corrado Nuccini di Giardini di Mirone insieme a Daniele Rossi, che suonavano i brani che abbiamo scritto appunto per questo spettacolo. Più avanti, più difficile da raccontare. E quindi sarà un'oretta questo spettacolo, e sarà fatto in versione ridotta, e comunque appunto ispirato a Quando tutto diventò blu, racconta le storie della protagonista, che è Chiara, che si trova nel bel mezzo di un'avventura. Insomma, capisce che ha un problema molto particolare, perché soffre di attacchi di panico, e quindi anche questa cosa qua è abbastanza complessa, perché non solo è uno spettacolo di un fumetto che diventa un concerto, ma parla anche appunto di attacchi di panico, quindi è la prima volta che viene fatto uno spettacolo su degli attacchi di panico. È stranissimo, abbiamo fatto durante il 2020 una quindicina di date in giro per l'Italia, ed è stato sempre un concerto sold out, pieno di gente. A Milano abbiamo fatto una data, eravamo in 300, incredibile anche per i numeri di questa era Covid, eppure c'è stato così tanto interesse, e siamo molto contenti. Io sono veramente contento di quello che è successo grazie a Sooner. La musica in qualche modo rispecchierà le atmosfere riflessive, come dicevi tu, un po' particolari del fumetto? La musica rispecchierà anche tantissimo l'atmosfera del fumetto, anche perché l'abbiamo composta noi, attraverso appunto questa residenza d'artista in cui ci siamo incontrati per fare le prove e per buttare giù le nostre idee. Proprio ieri guardavo mini clip che avevo registrato col telefono delle prove, e è stato fantastico vedere quello che è successo appunto con delle persone che si mettono giù a progettare uno spettacolo. Cioè, ti dico la verità, non avrei mai pensato di vedere questo spettacolo nascere da questo fumetto, e neanche quando scrivevo fumetto avrei mai pensato che una storia disegnata blu poi potesse diventare uno spettacolo da portare in giro per l'Italia. Questa è una cosa fantastica, e chi ci sta ascoltando dà la possibilità di pensare sempre che le cose possono migliorare, possono cambiare, possono diventare altro. Quindi ogni volta che fate qualcosa, non pensate che questa cosa finisca nel momento in cui la fate. Quando costruisci una cosa, quando fai una cosa, cose poi possono diventare altro. Quindi è sempre meglio fare qualcosa, sempre meglio versare il latte piuttosto che non versarlo per niente. Quanto è importante per te, ma più per voi, perché non sarai da solo a salire su quel palco, ma quanto è importante ritornare su un palco dopo un po' di tempo? Allora, questa domanda è quasi strappalacrime. A me manca tantissimo la vita prima. Andare in giro è una cosa importante, perché ti fa capire esattamente che cosa vuol dire vivere in Italia, cioè andare nei posti, girare, suonare dal vivo, è uno dei pochi mezzi che hai a disposizione per capire esattamente come funziona questo paese e conoscere le persone. È una cosa fondamentale. Di Quando tutto diventa blu, fra po', al 7 maggio uscirà il disco, quindi oltre ad aver fatto lo spettacolo tratto da un fumetto, facciamo anche il disco, che sarà edito da Tempesta. Ci sarà anche il vinile in 500 copie, Per cui pensaci, è stranissimo, perché magari a uno scrittore, se gli va di culo, il suo libro diventa un film, ma tutti sono capaci di fare un film da un libro, però quanti sono in grado di fare un vinile da un fumetto? Questo per dirti che quest'anno continueremo a fare delle date dal vivo, se appunto i tempi lo permetteranno, perché questo andare in giro a suonare, io l'ho fatto anche con il gruppo in cui suonavo, che si chiama Altro, è una cosa importante ed è molto bello andare ai concerti. Nel frattempo ricordiamo che il 18-19 marzo ci possiamo accontentare, diciamo, di un concerto a fumetti quando tutto diventa blu al Sooner Festival, anche se a distanza sarà bellissimo comunque. Esatto, quindi se siete davanti al computer e non avete nient'altro da fare, tanto che non c'è niente da fare perché al massimo potete andare a prendere un caffè da asporto e una birra da asporto e poi portarvela a casa. Collegatevi al Festival di Sooner, ci sono tantissimi progetti che vale la pena guardare. Io colgo l'occasione per ringraziare appunto le persone che hanno dato una chance a questo progetto, a Corrado Muccini che ha suonato e ha prodotto con me le canzoni del disco, Ilariuni, la cantante dei Gomma, Erskine, Verano, che hanno cantato nel disco e che ci hanno seguito in tour, e poi tutte le cantanti che sono state ospiti del nostro spettacolo, quindi sono Maria Antonietta, Han, Giungla, Niader, sono tutte queste persone che hanno suonato insieme a noi in queste date dal vivo in quest'anno. Questo concerto dal vivo online è una sorta anche di ringraziamento a tutte queste persone.